Salve, sono Mario Sabatino, questo è il mio podcast, oggi è il 3 marzo 2011 e vi parlerò di diaspora facendo due flash sulla sicurezza e sulla privacy. Nel progetto originario di diaspora era previsto che i dati degli utenti fossero criptati con doppia chiave asimmetrica. Per problemi tecnici è stato deciso, almeno per ora, di non criptare tutti i contenuti presenti sui server, ma di utilizzare protocolli di cifratura per la comunicazione tra pod. La sicurezza dei dati pubblicati su Diaspora dipende quindi interamente dalla sicurezza del pod e dal server dove sono ospitati. Ho scaricato il file XML del profilo personale che trovate sotto Account Settings se siete anche voi utenti di Diaspora. Questo file XLM del profilo potrà essere utilizzato per migrare da un pod all'altro oppure per caricare i propri dati, i propri contatti, i propri post nel proprio pod personale. Se osservate il contenuto del file, di cui trovate un estratto nel sito della pagina giuridica all'indirizzo www.lapaginagiuridica.net, notate che c'è una coppia completa di chiavi dell'utente titolare del profilo, quella privata e quella pubblica, oltre alle chiavi pubbliche dei contatti. Ebbene, chiave pubblica e chiave privata presenti nello stesso file, francamente a me la cosa lascia perplesso. Infine la privacy. Secondo gli sviluppatori di Diaspora, la privacy non rappresenterebbe un problema. Infatti, la natura delocalizzata e distribuita del social network risolverebbe alla radice la questione. Nulla da dire in caso di pod autogestito. Tuttavia, poiché non tutti hanno le capacità tecniche per installare e mantenere un pod, e la maggior parte degli utenti deve quindi rivolgersi a un servizio di hosting come joindiaspora.com o diasp.org, la questione della tutela dei dati personali degli utenti si presenta come? Il gestore del pod deve dichiarare infatti una sua policy sulla privacy e gli utenti devono autorizzare il trattamento dei dati. Inoltre si presenta il problema del rapporto tra gestori dei pod e gestori dei server, che spesso sono dei server virtuali. Quindi il sistema si presenta parecchio articolato. Alcuni commentatori nei siti statunitensi hanno già affermato che se non viene risolto il problema della privacy, il Diaspora potrebbe risolversi, trasformarsi in un enigma, un incubo giuridico. Sono auspicabili modelli di comportamento e policy uniformi che prevedano standard minimi di tutela degli utenti. Speriamo che gli sviluppatori di Diaspora se ne accorgano e che la comunità degli utenti contribuisca. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Buonasera.